mezza rima urla un'anima beata. Non sa andare a tempo, ecco un eco dell'inferno. Tutto sto casino per questo paradiso. Manco trovo un figo, 7 giorni che cammino. Scrivo e non so dove vado, di fronte a me un altro beato. Ma di Beatrice manco l'ombra, ma frenzonato anche stavolta. Questa è quasi più stronza della regina nelle cronache di Narnia. Mi son rotto di scrivere in volgare, se poi nessuno mi capisce. L'unico ricordo che gli studenti hanno è che c'ho il naso lungo quasi quanto Pinocchio. È proprio vero che più diamo meno riceviamo. Spero non sia stato troppo alto il prezzo del biglietto. Scrivo un altro verso e bevo un altro sorso. Non sono Ghibellino ma un fedele guelfo. Tutta la vita che scrivo e sono il migliore di questa scena. A Firenze ogni volta che passo la gente si inchina e mi fa la ola. Ola ola come Mengoni. Ola ola passo i Ghibellini. Ola ola viva sta commedia. Ola ola beatamo ancora.